Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di storia. Sabato prossimo, infatti il 25 aprile, ricorre una data importante, il 75esimo anniversario della Liberazione. E allora vi voglio segnalare questa sera, per cominciare, un libro di Daniele Biacchesi, un giornalista radiofonico molto noto anche ai nostri ascoltatori, che ha scritto L'Italia liberata, storie partigiane. È pubblicato da Yacabook con Ponti di Memoria, 332 pagine, 35 euro. Questo libro ripercorre innanzitutto la storia del fascismo, per poi sviluppare una lunga parte dedicata appunto alla resistenza, a episodi e momenti importanti di quel periodo, alle pagine più nere della reazione nazifascista e alle battaglie partigiane. E si conclude col dopo, con i mesi immediatamente successivi alla liberazione, con una serie di testimonianze di quattro protagonisti indimenticabili: Tina Anselmi, Vittorio Foa, Giuliano Vassalli e Giorgio Bocca. E poi troveremo anche ritratti e rievocazioni di altre figure importanti e di pagine drammatiche di quell'epoca. Il libro è nato da un progetto ambizioso e realizzato, quello di costruire uno spettacolo basato appunto sulle testimonianze degli ultimi protagonisti della resistenza, sempre più decimati dall'avanzare dell'età. Anzi, voglio ricordare qui gli ultimi che se ne sono andati in questi ultimi mesi: Enzo Angeli, 92enne, Tonino Guerra, 93, Guglielmo Giusti, 95, Luigi Moranino, 94, Orazio Piccini, 92 anni, e Silvestro Lo Consolo, 99 anni. Il progetto si è realizzato col supporto soprattutto di Ampi e Arci, che hanno animato una campagna di crowdfunding conclusa con successo, che ha permesso di giungere a questa opera nata per ricordare i 45.000 partigiani morti, 453.000 soldati uccisi dopo aver rifiutato di unirsi ai nazifascisti, alle tante vittime in azioni di guerra, nei lager, nelle stragi compiute in quei 20 mesi. E con il libro troverete il DVD del film illustrato da Giulio Peranzoni. Una pagina particolare della Resistenza fu quella a cui diedero voce le resistenti liberali, di cui parla Rossella Pace, storica del liberalismo, in Partigiani liberali, organizzazione, cultura, guerra e azione civile, pubblicato da Rubbettino, 264 pagine, 16 euro. La componente liberale della Resistenza fu importante ed è probabilmente stata sottovalutata. Già da Presidente della Repubblica, Sandro Pertini aveva così ricordato quella componente. Uomini e donne leali, disinteressati e coraggiosi, senza esibizionismi, che tutto hanno dato alla causa della libertà senza nulla chiedere. Ed è per questo che diciamo che dovrebbero essere oggetto di maggiore attenzione e rivalutazione da parte della nuova storiografia. Uomini e donne, sottolinea Pertini nel brano che avete ascoltato, e tra le donne una in particolare, la ligure come Pertini, genovese, Virginia Minoletti Quarello, di cui il libro ripropone nell'ultima parte il diario, anzi le pagine di cospirazione genovese scritte nei mesi della resistenza, che videro la protagonista attiva per ricostituire il PLI da un lato e dall'altro per sostenere la resistenza. Contribuì la protagonista a quella crociata antinazista liberale di cui era uno dei protagonisti Edgardo Sogno, una crociata che sarebbe stata poi appunto molto sottovalutata. E il libro parte perciò proprio dall'importanza di riscoprire le storie locali della resistenza, che sono ricche di sfumature, in grado dunque di mettere nel giusto rilievo contributi finora trascurati. Ritornando, come fa Biacchesi, a ciò da cui tutto aveva avuto origine, cioè il fascismo, vi segnalo la meritoria ristampa del libro di uno dei grandi scrittori italiani del Novecento, Ignazio Silone, di cui tra l'altro il 1° maggio ricorderemo il 120esimo anniversario della nascita. Ma questo non è un libro di narrativa. Nel 1929, quando si firma ancora col nome originale di Secondino Tranquilli, Silone era un importante esponente del Partito Comunista che aveva contribuito a fondare, ma col quale proprio in quei mesi stava maturando una drammatica rottura, una rottura che si compirà e dopo la quale lo scrittore diventerà uno dei più significativi esponenti del socialismo democratico. Nel 1929 dunque Silone è in esilio in Svizzera, è malato, malato e ricoverato al sanatorio di Davos, e un periodo nel quale matura una doppia svolta. L'anno dopo, appunto, sarebbe stato espulso dal Partito Comunista e avrebbe abbracciato la carriera letteraria pubblicando Fontamara. A Davos, Silone decide di scrivere un libro sul fascismo che sia anche l'occasione per una critica e un'autocritica del primo dopoguerra italiano. L'impianto metodologico, che originariamente era quello di scrivere un libro che nascesse da un confronto tra vari esponenti, non si poté realizzare, e dunque ne emerse un testo in tedesco pubblicato a Zurigo nel 1933 dopo vari tentativi. Un tentativo di pubblicarlo in Francia fu respinto, l'autore stesso tornò molto spesso sul testo. Insomma, l'edizione definitiva uscirà nel 1933. Certo, questo testo non poteva piacere ai comunisti, come ricorda infatti nell'introduzione Mimmo Franzinelli. Il massimalismo spicca qui nella sua essenza demagogica di spettatore inerte delle lotte popolari, totalmente inadeguato ai compiti dell'ora. Le imponenti adesioni di massa al Partito Socialista non furono tradotte in forza d'urto, ma sprecate in un rivoluzionarismo parolaio. E l'opera sarebbe rimasta inedita in Italia fino al 2002, adesso ritorna con il titolo Il fascismo, origini e sviluppo, e curato appunto da Mimmo Franzinelli, tradotto dal tedesco, dall'unica edizione precedente da Marina Buttarelli, 332 pagine, 16 euro, e l'editore Mondadori. E sentiamo dal libro alcune righe sull'interpretazione che Silone diede del fascismo come risposta, più ancora che al massimalismo di sinistra, al riformismo che tanto impensieriva la borghesia italiana nell'immediato primo dopoguerra. Il fascismo si affermò assai più come reazione al riformismo che al massimalismo. Gli agrari, i commercianti, gli impiegati e i piccoli industriali che nel 1921 avevano aderito in massa al fascismo cercavano in questo movimento un'arma per distruggere non il massimalismo, bensì il riformismo. Infatti, proprio nelle province in cui quest'ultimo godeva di maggiore potere, il fascismo si mostrava più assetato di sangue. Il rivoluzionarismo parolaio dei massimalisti rappresentava un pericolo solo per i lampioni stradali e talvolta per le ossa di qualche agente di polizia. Mentre il riformismo, con le sue cooperative, con i suoi aumenti salariali durante i periodi di crisi, con i suoi sussidi di disoccupazione, minacciava qualcosa di ben più sacro: il profitto capitalistico. I progressi del riformismo, turbando il processo di accumulazione del capitale, riducendo e soffocando i normali profitti capitalistici, minacciando l'esistenza sociale di tutto il ceto medio, infrangevano l'ordine sociale. Per difendersi dal massimalismo parolaio, che dalla mattina alla sera canta Bandiera Rossa e l'Internazionale, il capitalismo ricorre alle leggi. Per combattere il riformismo, invece, che turba l'equilibrio tra le classi percorrendo strade pacifiche, democratiche e legali, esso diventa sanguinario e si serve del banditismo. Se con Silone possiamo ricostruire l'inizio del fascismo, con Pierluigi Vercesi possiamo invece ricordare l'inizio della fine del fascismo. Vercesi, noto giornalista, autore de La notte in cui Mussolini perse la testa, 24-25 luglio 1943, Neri Pozza, 222 pagine, 13,50 euro, rievoca quella riunione fatale in questo libro, la riunione del Gran Consiglio, che normalmente si riuniva in piena notte e che invece quel giorno fu insolitamente convocato nel pomeriggio. Fu la riunione nella quale il Duce sarebbe stato esautorato. Da diversi anni, dall'inizio della guerra, ormai il Gran Consiglio non si era più radunata, e quella convocazione a fine luglio suscitò subito curiosità e aspettativa, fino alla premonizione che appunto che Mussolini fosse stato messo in minoranza. Vercesi ci fa una cronaca documentatissima di quelle due giornate decisive, mettendoci quasi a tu per tu con i protagonisti. Per la cronaca, i protagonisti erano 28 più il Duce, che si era ingannato sulla sua capacità necessità di mantenere anche in quell'occasione il controllo dei gerarchi, i quali viceversa, come noto, aderirono in maggioranza all'ordine del giorno predisposto da Dino Grandi, fascista della prima ora e assai abile, anche dopo la fine del regime, ad accreditarsi come espressione di un fascismo moderato e presentabile, magari anche anglofilo. Vercesi nel suo libro lo definisce doppio giochista, millantatore, squadrista nell'animo, ma anche politico più accorto in un'Italia dove il gioco politico era condotto da un uomo solo. Interessante anche la ricostruzione di Vercesi sui protagonisti esterni al Gran Consiglio che favorirono l'estromissione di Mussolini, a partire dagli ambienti economico-finanziari e dalla Chiesa, o da certi ambienti della Chiesa, come quelli che facevano capo al giovane Giovan Battista Montalto, il futuro San Paolo VI. E a questo punto il confettino. Il partigiano Sandro Pertini, che abbiamo appena citato, troviamo presentato ai ragazzi nel libro di Fulvio degli Innocenti, che è una giornalista e scrittrice per ragazzi. Sandro Pertini, amato presidente, illustrato da Roberta Santi per Book Book, un editore di Trapani, 96 pagine, 9,90 euro, nel quale viene ricordata la figura di questo celebre politico socialista che divenne nel 1978 presidente della Repubblica, conquistandosi subito grande popolarità, e completa il libro l'intervista Dino Zoff, il capitano della nazionale che vinse il campionato del mondo di calcio nel 1982, fu riaccompagnato lui e tutta la squadra a casa dallo stesso Pertini sul suo aereo, e che fu protagonista in quel viaggio di quella che è rimasta forse la più celebre partita a scopone scientifico, in cui Zoff fece appunto coppia con Pertini contro Bear, Zopt e Causio. E Interlinea propone un libro sulla canzone simbolo della resistenza, quello di Cesare Ermani, storico della tradizione orale, che ha scritto Bella Ciao, storia e fortuna di una canzone dalla resistenza italiana all'universalità delle resistenze. 96 pagine, 10 euro, per adesso lo trovate in ebook, dal 4 maggio sarà in libreria, e nel libro troveremo una storia delle origini, della diffusione, della fortuna internazionale di questa canzone, oltre a molte immagini sull'utilizzo, fino a quello recentissimo da parte delle sardine, del ritornello. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, e dopo la storia vi propongo un genere forse meno praticato, ma che potremo riscoprire in queste giornate di lettura lenta, e cioè la poesia. Cominciamo con uno dei grandi classici della fine dell'Ottocento, il grande rinnovatore della poesia moderna, Arthur Rimbaud, che così ci presenta Olivier Bivor, che è un docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Non abbiamo più traccia di poesia negli scritti di Rimbaud dopo il 1875. Realizzò poi il sogno di sempre, partire verso l'Oriente e conquistare quell'altrove fino ad allora solamente anelato. Lì, l'alchimista del verbo si arricchì, capitalizzando l'oro guadagnato a fatica nelle sue attività commerciali. Scrisse un rapporto topografico destinato alla Società di Geografia di Parigi. Intanto, nella capitale, il piccolo mondo delle lettere scopriva le sue poesie, pubblicate a sua insaputa, ma di questo non si occupava più. Andava in cerca di spazi sconosciuti, di territori ancora inesplorati. Si ammalò, tornò in Francia per farsi curare. Morì a soli 37 anni. Queste parole sono tratte dall'introduzione dello stesso Bivor, che ha curato il volume che raccoglie le opere di Arthur Rimbaud, con testo originale a fronte e la traduzione di Ornella Tajani per Marsilio, 850 pagine, 20 euro. Siamo dunque al cospetto di uno dei grandissimi dell'Ottocento, che rivoluzionò in 5 anni la poesia, facendola entrare nella modernità con versi scritti tra i suoi 15 e 20 anni. Nel volume troveremo di Rimbaud tutte le poesie poesie, le prose con una scelta di lettere, nonché degli inediti per l'Italia, ossia una serie di scritti recuperati recentemente in Francia. E sentiamo ancora Bivot come riassume quella che egli chiama la parabola di Rimbaud. Forza e determinazione caratterizzano l'intera parabola di Rimbaud e influiscono sia sul suo modo di vivere, sia sulla sua scrittura, sempre tesa alla conquista dell'io e del mondo. Superando barriere, abbattendo muri, infrangendo vecchie certezze, la sua impresa è prima di tutto un atto di ribellione. Ribellione contro la banalità, lo status quo, i luoghi comuni. Ribellione contro la famiglia, la società, la borghesia, la religione, il potere. Ribellione contro una letteratura priva di qualità visionarie, incapaci di svelare l'essenza delle cose nascoste. Torniamo invece in Italia con un nome popolare, quantomeno alla mia generazione, Bruno Lauzi, che qui ascoltiamo con questo brano musicale. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Invece di Lauzi vi propongo le poesie. Lauzi, come ricorderete, è scomparso nel 2006. Adesso vengono ripubblicate le sue poesie in Ricomporre poesie, poesie 1992-2006, curato il libro da Francesco De Nicola per Oltre Edizioni, che è un editore di Sestri Levanti, 220 pagine, 18 euro. E nel libro viene presentata tutta l'opera poetica di Lauzi, il quale era stato spinto a poetare lui e i suoi compagni di classe da un professore di liceo. E poi Lauzi avrebbe riscoperto questa passione dopo i successi come cantautore, pubblicando dei libri diversi che Lauzi considerava come una produzione indipendente da quella musicale. E quando poi Lauzi fu colpito nel 2000 da una malattia che gli impediva di suonare, si dedicò con rinnovata energia a questa passione. E ne esce appunto questa raccolta, dalla quale vi propongo una poesia del 1992 che si apre col verso che dà il titolo al volume ed esprime il programma del Lauzi poeta. Ricomporre armonie spezzate dentro, gli antichi colonnati, i peristili, oggi precipitati, equilibri di sfere, i marmi interni, i lampi luminosi ed i sorrisi enigmatici e chiusi della classicità. Queste e altre cose ancora sono la poesia da ritrovare. Questo bisogna fare. E poi naturalmente non può mancare un omaggio alla sua città con questi versi intitolati Stazione Principe. Dai palazzi di Genova severi, colonne di cannella e zafferano, dell'ocra e dell'ibisco, ma lontano, per calarmi in Europa come resa di fiume alla pianura, verde d'argente ai pioppi e alla calura, dove vento di mare non respira. Oggi è giorno dell'ira, vado a Milano solo a litigare. Fammi trovare aperte le finestre questa sera perché possa guardare. Vado per ritornare. E adesso parliamo dell'opera di un altro grande menestrello di cui sentiremo un breve brano. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. L'avrete riconosciuto, era Leonard Cohen. Di Cohen Bompiano pubblica La Fiamma, poesie e pagine scelte dai quaderni, tradotto da Luca Manini, 304 pagine, 24 euro, che raccoglie gli scritti che l'artista canadese aveva composto negli ultimi anni, testi di canzoni, ma anche brandelli scritti su pezzi di carta, appunti vari, oltre che illustrazioni e brani di prosa. Un libro multiforme, come è stato definito, per riassumere la ricchezza di temi e suggestioni che Cohen, ormai al crepuscolo, raccoglie, dimostrando di non aver certo esaurito la fiamma che l'ha dominato per tutta la vita. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. Un altro grande, questo della musica rock, David Bowie, ci viene presentato invece nel libro a fumetti di Michael Allred, che è un importante disegnatore statunitense, di Steve Horton, che fa lo sceneggiatore, Laura Allred, si intitola Bowie, Stardust, Regans and Moon Age Daydreams, è pubblicato da Panini Comics, 160 pagine, 24 euro. Gli esperti ritengono Allred quello che meglio avrebbe potuto portare sulle tavole David Bowie, e il libro è stato salutato come un'impresa riuscita, anche per la fusione tra i testi e le magnifiche immagini che rievocano efficacemente le capacità visionarie quasi oniriche di David Bowie. Ne ripercorriamo qui la carriera, che certamente non fu facile all'inizio. A un certo punto Bowie fece anche l'attore, recitando per esempio in una pubblicità di un ghiacciolo che era stata diretta da un giovanissimo Ridley Scott. Poi finalmente Bowie riesce a registrare la prima versione della sua prima hit, Space Oddity, e da lì il successo, l'influenza che su di lui avrà la musica americana, l'impatto che Bowie avrà sulla cultura anche visiva del suo tempo, quando finirà appunto con l'identificarsi con Ziggy Stardust, di cui abbiamo sentito alcune note. E adesso parliamo di un poeta che scrive, non per la prima volta, per la verità, in prosa in questo caso, e cioè Maurizio Cucchi, di cui esce La vita docile, Mondadori, 112 pagine, 17 euro. Un libro che mi ha colpito anche perché si svolge tra le mie due città, quella di nascita, Catania, e quella di adozione, Milano. A Milano incontriamo ai primi del Novecento un Pino, un brillante ragazzo della borghesia catanese che è venuto a Milano per studiare ingegneria, e qui si innamora con una Teresa, una ragazza di modeste condizioni, senza padre, con una madre inconcludente che non sa assicurare un futuro a lei e al fratellino. Tra Pino e Teresa scoppia la scintilla, molto più che una scintilla nascerà anche una figlia, ma le strade ben presto divergeranno, con Pino costretto a un matrimonio più consono alle sue condizioni sociali. Ma l'amore non muore, ne seguiremo le vicende nel tempo, con Pino sempre più consumato da una malattia che ne pregiudica anche la carriera, ormai si era dato la carriera militare, ma anche consumato dall'autentica passione per il suo primo amore. I due vivranno poco, se ne andranno quasi insieme, a conferma di un rapporto che ha segnato due vite apparentemente banali, normali, vissute in epoca di straordinario sconvolgimento culminato nella prima guerra mondiale, che l'autore lascia sullo sfondo, ma di cui ci dà traccia attraverso vecchie immagini. Due vite percorse dalla bellezza interiore di un sentimento forte, come scrive l'autore, vissuto nella faticosa fedeltà da parte di Agnese e nel dispersivo spreco dell'infedeltà da parte di Pino. E sentiamo dal libro di Cucchi qualche riga sulla Milano del 1906, nella quale sboccia l'amore tra i due protagonisti, molto simile nel suo entusiasmo alla Milano che abbiamo conosciuto fino alla maledetta chiusura di poche settimane fa. In quel 1906 la città ebbe in effetti una spinta di entusiasmo collettivo. L'esposizione era stata indetta per festeggiare il traforo del Sempione dell'anno prima. Si era svolta tra il 28 aprile e l'11 novembre, con un investimento di circa 12 milioni. Avrebbe dovuto essere inizialmente solo dedicata ai trasporti terrestri e marittimi, ma il programma si ampliò moltissimo. Furono creati spazi per le arti, l'agraria, la pesca, la zootecnica e altro ancora. E l'insieme fu ripartito tra il parco e la piazza d'armi di allora, dove sarebbe poi sorta la fiera nel 24, e la ferrovia sopraelevata di cui parlava Agnese aveva una lunghezza di 1700 metri. La stazione d'arrivo era alla piazza d'armi. Lì vicino era il palazzo dell'automobile e del ciclo. Fu allestita una rete telefonica interna con circa 200 apparecchi, e c'erano due caserme in grado di ospitare 600 guardie. Agnese era semplice, diretta, leggermente malinconica, ed era molto carina e fine, con un tratto che aveva già incantato Pino. E adesso è l'ora del classico. Il mattone. Ci presenta questa settimana il suo classico Andrea Kerbacher, scrittore, organizzatore culturale, bibliofilo. Io in questo periodo il mattone me lo sono proprio letto. Sono I demoni di Fyodor Dostoevskij, un libro di più o meno 800 pagine a seconda della traduzione che si prende. È diviso in tre parti e nella prima non si capisce bene dove vuole andare a parare, non si capisce bene chi siano questi demoni, si capisce che c'è qualcosa che cova sotto la cenere, ma il libro un po' traccheggia tra feste, tra mondanità, tra governatori di una cittadina che vanno e vengono, tra strani personaggi, tra cui il protagonista che però entra in scena un po' dopo perché prima era fuori dalla Russia, e leggende che vanno e vengono, insomma è una parte un po' strana, introduttiva, ma serve e comunque è molto lunga e corposa, ma si legge con immenso piacere, va via. Ma se uno ti chiede ma di che cosa parla questo libro, è difficile capirlo e comprenderlo. In realtà si capisce molto bene quando poi ci si inoltra nella lettura, nella seconda e terza parte, e Dostoevskij dà veramente il meglio di sé. I demoni sono quelli che covano all'interno di alcuni personaggi, nel loro interiore e all'interno della società. Sono i demoni di una rivoluzione che ci metterà 50 anni, il libro è dei primi anni 70 dell'Ottocento, ma poi effettivamente scoppierà in Russia, e sono i demoni di una situazione che è sotto le ceneri di un'apparente tranquillità veramente esplosiva. E come sempre Dostoevskij poi è bravissimo, quando tutto degenera, a descrivere le situazioni più tragiche, i momenti più terribili, quando tutto implode, e quindi il libro trova poi nella sua terza parte, nella conclusione, una tragicità che lo rende assolutamente perfetto in momenti come questi e in generale come lettura. E dei demoni vi segnalo le edizioni più recenti, quella di Garzanti tradotta da Francesco Gori, 13 euro, quella di Mondadori tradotta da Riccardo Cuferle, 13 euro, di Feltrinelli e di Gian Lorenzo Pacini, 14 euro, di Newton Compton tradotto da Margherita Santifarina, 9,90 euro, Einaudi con la traduzione di Alfredo Polledro, 15 euro, tutte queste edizioni hanno fra le 700 e le 900 pagine. E invece voglio segnalare del nostro ospite Andrea Kerbacher un recente romanzo, Celebrity, pubblicato da La Nave di Teseo, che è una divertente e amara parabola di un ragazzotto di provincia divorato dall'ansia di affermarsi nello star system partendo dalla partecipazione a un quiz televisivo. Il libro ci fa ripercorrere in diretta l'ansia di Pino, un barman toscano che spera di aver toccato il cielo con un dito. Il ragazzo è dotato di una cultura quasi esclusivamente televisiva, ma il suo sogno avrà un brusco risveglio per un evento improvviso e drammatico che darà una svolta alla vita del protagonista, ma non quella sperata. Con tono lieve, senza cadere in snobismi o moralismi, Kerbacher ci dà un ritratto efficace della società contemporanea. Un giovane illuso, una diffusa dipendenza dalla televisione, una famiglia protettiva e ipervittimista. Prima di lasciarci vi ricordo alcune iniziative a favore del libro e della lettura, innanzitutto per dare una mano e per venire in aiuto agli editori che vendono poco in questo periodo. Vi segnalo per esempio l'appello che ha fatto il direttore editoriale di Lindau, Ezio Quarantelli: comprate almeno un libro dal nostro sito per darci una mano. Poi vi segnalo un'iniziativa di Garzanti che mette in vendita a 9,90 euro, Andrà tutto bene, è un ebook con 26 scrittori che partecipano a questa iniziativa componendo questo libro, il cui ricavato andrà a favore dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il libro costa 9,90 euro. Prima di lasciarci salutiamo Luis Sepúlveda, che il coronavirus ha portato via giovedì scorso. Sepúlveda, settantenne, era molto caro a tanti lettori. Solo in Italia aveva venduto complessivamente quasi 9 milioni di copie dei suoi libri, pubblicati tutti da Guanda. Tra questi alcuni grandi successi, quali Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e La storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, che incantò grandi e piccini. Cileno, Sepúlveda aveva collaborato con Salvador Allende, poi dopo il colpo di Stato nel suo paese era stato imprigionato per 2 anni e mezzo, era stato esiliato, si era stabilito in Europa, vivendo prima in Germania, poi in Francia e adesso appunto nelle Asturie, dove è scomparso, e avrebbe riacquistato la cittadinanza cilena solo nel 2017. E con questo ringrazio Luca Cremonese e redazione, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro chiocciola radio24.it e il nostro sito www.